Il punto di Stefano Folli. Il chiarimento che Enrico Letta deve promuovere subito, ora che sta per atterrare a Fiumicino, richiede molta decisione e lucida coscienza che il momento è grave. Niente a che fare con le stanche verifiche che appartengono ai riti della vecchia politica. Chiarimento vuol dire confronto in Parlamento su un programma preciso, quello che il governo farà nei prossimi mesi come dovere verso gli italiani e verso l'Europa. Su questo programma il patto di maggioranza potrà essere rinnovato oppure no, ma tutto dovrà accadere alla luce del sole. Se deve essere crisi di governo, dovrà essere su questo, non sulle convulsioni interne del PDL. Tutti, a cominciare da Berlusconi, dovranno assumersi le loro responsabilità. Perché non si può neanche ammettere la messa in scena dei parlamentari che fingono di abbandonare i loro scranni, quando i ministri del centrodestra restano invece tutti in carica. Se Berlusconi vuole le elezioni anticipate, ora ha l'occasione di ottenerle, ma in Parlamento. Altrimenti è solo un gioco al massacro delle istituzioni.